La cosa interessante è che il presidente Mattarella nel suo discorso ha esplicitamente, insomma senza nascondere la retroscena, dichiarato che il motivo per cui questa squadra di governo non poteva essere accettata era la presenza di Savona, e che la presenza di Savona, secondo le parole di Mattarella, avrebbe prevedibilmente e anzi ha aggiunto quasi inevitabilmente portato l'Italia fuori dall'euro, e questo come garante, diciamo, del rispetto costituzionale Mattarella non poteva accettarlo, adducendo il motivo che questo avrebbe pregiudicato la difesa dei risparmi proprio in conseguenza di un'uscita dall'euro. Ora, una persona che ha fatto carriera all'interno delle istituzioni, nel senso che è stato in Banca d'Italia, ha avuto ruoli di governo con Ciampi, e quindi è tutt'altro che un novizio delle istituzioni. L'aspetto interessante del suo profilo è che se una prima fase, diciamo quella della gioventù e della maturità della sua carriera istituzionale e accademica, è stato un personaggio comunque coerente all'interno di quel quadro di tecnici che ha portato l'Italia all'interno dell'euro e che andava verso l'idea che, insomma, il vincolo esterno alle politiche economiche fosse qualcosa di cui il paese aveva bisogno per correggere le sue storture, che era un po' la visione anche di Ciampi, anche di tutta la squadra dei tecnici di quegli anni. Poi Savona si è mosso su posizioni fortemente critiche, sempre con una visione anche non propriamente keynesiana delle cose. Ancora negli ultimi anni Savona continuava a proporre l'idea che per ridurre il debito pubblico bisognasse procedere con delle privatizzazioni del patrimonio, e quindi, diciamo, c'è sempre stata in lui una componente di pensiero chiaramente improntata al liberismo, però con uno scetticismo che potremmo quasi paragonare allo scetticismo di Margaret Thatcher nei confronti dell'euro proprio negli anni 90. Savona negli ultimi anni si è posizionato sull'idea che bisognasse comunque negoziare con l'Europa regole differenti, ma che lo si dovesse fare con la consapevolezza di avere un piano B pronto per uscire dalle istituzioni europee. Quindi, tra tutte le persone che potevano in qualche modo aspirare al ruolo di ministro dell'economia di questo governo, di questo ormai, insomma, non nascente governo, Savona è quello che probabilmente, all'interno delle persone che hanno avuto a che fare con la storia istituzionale dell'Italia, più pericolosamente, diciamo, poneva in campo l'idea che fosse possibile mettere l'uscita dall'euro in campo come condizione negoziale, mentre invece, ad esempio, per fare un paragone, insomma, recente, quello che abbiamo visto nel 2015 in Grecia è stata una negoziazione impostata sull'idea che comunque quel confine non potesse essere valicato, proprio perché Tsipras si è sentito in quella fase non intitolato a porre in campo l'opzione dell'uscita dall'euro. Si è andati fino a chiedere al popolo attraverso referendum se accettare o meno il piano di Bruxelles, ma quando poi il voto popolare comunque non ha determinato da parte di Bruxelles l'accettazione di queste istanze, non si è valicata la linea rossa. Con Savona c'era questo, e c'era anche forse anche la consapevolezza da parte del Quirinale che il famoso piano B di cui si parla Savona magari non lo avrebbe dichiarato esplicitamente in anticipo, cioè lo avrebbe tenuto lì come una possibilità negoziale. Ed è una cosa che peraltro nel dibattito accademico internazionale esiste da anni. Ad esempio Charles Diplos, che è un economista famosissimo, che ha anche proposto negli ultimi anni qualcosa di molto simile alla cancellazione del debito di cui si è parlato nei giorni scorsi, ha anche detto in alcuni interventi che sarebbe necessario, diciamo, fare questa politica del piano A e del piano B per ottenere risultati. Ma anche per esempio Luigi Zingales, in un articolo recentissimo su politico.eu, ha proprio dichiarato che, come dire, se l'Italia, chiunque l'avesse governata, vuole ottenere dei risultati, deve andare in Europa e dire: vogliamo questi cambiamenti all'architettura dell'Eurozona, se non ce li concedete noi faremo questo. Quindi l'idea di un negoziato esiste da tempo. Il fatto che una persona come Savona potesse, diciamo, direttamente farlo da ministro dell'economia ha probabilmente determinato il veto di Mattarella, cosa che invece lo stesso profilo è differente per quanto riguarda Carlo Cottarelli. Cottarelli è probabilmente tra gli economisti responsabili, diciamo, quelli più vicini al finale, e al contempo anche quello più lucido sui costi e benefici che l'euro ha determinato per l'Italia. Nel suo ultimo libro e anche nel libro precedente Il Macigno, Cottarelli dice chiaramente, insomma, per chi lo ha letto, che l'entrata nell'euro non ha fatto bene all'Italia, perché ha determinato, diciamo, la trasformazione strutturale del paese in un senso più vicino a quelle che sono le politiche praticate dalla Germania, che però è stato molto doloroso, e lui non ne fa mistero, cioè lo dice in maniera molto candida. Così come anche sia in televisione che all'interno del libro Cottarelli dice che se gli italiani italiani volessero, diciamo, considerare questa opzione, bisognerebbe che la politica rispettasse quello che è il mandato popolare. Al contempo, però, non fa neanche mistero Cottarelli di dire che questa opzione non gli piace e che l'idea invece per l'Italia sarebbe quella di cercare di stare nell'euro, rispettare le regole, evitare di incrementare il rapporto debito-PIL per evitare che i mercati si spaventino e, lo dice esplicitamente nell'ultimo libro, tentare la strada export-led, cioè cercare di crescere, quindi di ritornare a crescere, minimizzando le esportazioni e massimizzando le esportazioni. Quindi questo significa, nella sua ottica, l'idea di perseguire un po' quella che è stata il tentativo della politica economica di Bruxelles e dei governi che l'hanno in qualche modo interpretata, soprattutto il governo di Mario Monti. Naturalmente, nell'idea di Cottarelli, non quella di fare un avanzo primario enorme nel primo anno di governo, ma quella di cercare di fare una sorta di austerity light, nella speranza che però l'economia risponda a questa austerity light con un incremento di produttività. Il problema è che in un paese che ha perso gran parte della sua capacità produttiva, nel quale gli investimenti sono calati e in cui sostanzialmente gli unici settori che hanno visto una crescita dell'occupazione sono quelli dove l'occupazione è maggiormente precaria e dove il valore aggiunto e la qualità tecnologica della produzione non sono state le caratteristiche che hanno portato l'economia a in qualche modo non decrescere ma a ristagnare, ecco, di fronte a tutto questo sembra difficile che ci possa essere questo incremento di produttività che ci porta a crescere. Su questo Cottarelli sembra essere consapevole del fatto che se l'Italia non torna a crescere ci sono poche alternative rispetto ad un bivio che sembrava fino a ieri non al centro del dibattito, ma che invece oggi sembra esserci ritornato in maniera prepotente. Spesso in Italia leggiamo lo spread della borsa in chiave politica e nonostante il fallimento del governo giallo-verde e l'incarico dato a Cottarelli, lo spread continua a salire e le borse vanno male. Come dobbiamo leggere questa cosa? A mio avviso questa cosa va letta come la presa di consapevolezza da parte dei mercati che dire di no oggi ad un governo 5 Stelle e Lega significa aumentare le probabilità che un governo 5 Stelle e Lega con molti più voti vinca nelle prossime elezioni e che si possa insediare, diciamo, già in autunno. Quindi da un certo punto di vista la lettura che si può fare di questo fenomeno, collegata anche al fatto che la borsa è tornata in negativo e che anche titoli azionari di banche come Monte dei Paschi stanno continuando a perdere, è che il no dato ieri da Mattarella a questo governo è o potrebbe essere sostanzialmente soltanto un prolungamento della vittoria che potrebbe comunque esserci alle prossime elezioni.